azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di viole pioveva l'oro e il sole e folgorava veniva una carezza viva, un bacio, e gridai vinta d'amore. D'amore pregor varcai d'una chiesa alla soglia lamprete nelle nicchie dei santi e della vergine accumulava doni e al sordo orecchio un tremolo vegliardo in vano chiedeva pane e in vano stende la mela. Arcai degli abito nell'uscio, o nuovi calunniava bestemmiando il suolo, con l'orario appena sazia, e contro a Dio scagliava, e contro gli uomini le lacrime dei figli. Tanta miseria la patrizia prore che fa sull'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà ond'io guardato a voi siccome un angelo e dissi ecco la bellezza della vita e ma poi alle vostre parole un bello dolor ma poi voi glielo fatto oh giovinetta bella ed un poeta I'm